Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Chi passa stasera al Camp Nou va dritto in finale contro il Real Madrid o in alternativa contro il Bayern. Il ministro degli esteri è d'accordo? Buongiorno Fabio Tabelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Diciamo che si crea una forte possibilità, una forte probabilità. Io aspetterei, sinceramente, perché poi la storia insegna, e anche quella recente, che i turni vanno passati, non a parole ma in campo. Detto questo, Barcellona-Milan è in una parte di tabellone accoppiata a Chelsea-Benfica, quindi ragionevolmente Chelsea, e io credo che chiunque delle due questa sera passerà poi sarà largamente favorito contro il Chelsea, se passerà il Chelsea. Resta il fatto che mancano ancora due atti, quello di stasera e la semifinale. Io sinceramente, anche perché non è che la Champions League fino adesso sia stata tutta sta bellezza, vorrei godermeli un po', insomma, prima di arrivare al gran finale. Sì, e da stasera indubbiamente sì, perché non credo proprio che quella di stasera sarà una partita deludente. C'è stata questa vigilia un po' tormentata del Milan per ragioni di viaggio, anche se stavolta non era un vulcano a costringere una squadra a viaggiare in pullman, era semplicemente una cosa di controllore di volo che ha tardato un po'. Le ultime che arrivano da Barcellona danno invariata la formazione del Milan, quindi con Pato disponibile ma non impiegato, e invece con recupero di Xavi da parte del Barcellona. Confermo, è una buona notizia per Guardiola, perché Xavi comunque aveva giocato una buona partita, insomma, più che sufficiente anche sul campo brutto di San Siro, ed è un giocatore credo imprescindibile. Cioè, il Barcellona può anche in questo periodo non avere granché da Iniesta, ma se già non ha granché da Iniesta e gli togli anche Xavi, allora potrebbero diventare problemi. Quindi per Guardiola direi una ottima notizia, ma credo un'ottima notizia anche per Allegri il fatto di avere Pato, che già averlo lì in panchina potrebbe dare anche quei 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che servirà, se servirà, di qualcosa. Io non credo proprio lo rischierà dal primo minuto, sarebbe credo anche una discreta e insana follia, però Pato è un giocatore che può mettere molto in difficoltà la difesa del Barcellona, l'ha già fatto e quindi è lì pronto. Ma io credo che la sequenza di quel gol a freddo che Pato segnò nella partita a gironi, nella partita di qualificazione, quella d'andata, proprio al Camp Nou, sia un'immagine a cui aggrapparsi, no? per il Milan. Stasera non può essere Pato a segnare a freddo, proprio perché non giocherà in partenza, però insomma, potrebbe toccare un altro, potrebbe essere una volata di Boateng piuttosto che di Robinho, ma insomma, qualcosa del genere, perché come giustamente osservava ieri Guardiola, noi del Barcellona, dice Guardiola, dobbiamo pensare che il Milan un gol ce lo faccia, un gol ce lo segni, e quindi noi dobbiamo giocare in maniera di segnarne di più. Quel gol che il Milan potrebbe segnare, se fosse il primo, allora creerebbe una discreta destabilizzazione al Barcellona. Sì, costringerebbe il Barcellona a fare due gol. Io credo che la dichiarazione di Guardiola di ieri non sia di debolezza ma di forza, e cioè che lui sia pienamente consapevole del fatto che la sua squadra è più forte di tutte le altre, e quindi si possa anche aspettare una partita non facile, una partita nella quale possa anche essere costretto a rimontare. Poi il gol può essere, lo puoi segnare anche sul 4-0 per gli altri, questo non è un discorso. Sì, certo. Però ecco, è anche un riconoscimento della forza del Milan, che è una squadra che può guardare in faccia il Barcellona. Non dimentichiamoci che però adesso si gioca a casa del Barcellona, su un bel campo, su un campo che assomiglia all'Emirates e non a San Siro, e quindi ci sono per il Barcellona tutti i presupposti per fare una grande partita. Ci sono anche da parte del Milan, che ha nelle corde imprese del genere. Non dimentichiamoci che non è riuscito a battere il Barcellona, il grande Manchester United di Ferguson, il grande Real Madrid di Mourinho, ci prova il Milan, e quindi insomma, se il Milan non ce la facesse non avrebbe nulla da riproverare. No, certo. Le sensazioni sono però di un Milan che possa guardare in faccia il Barcellona, e nel caso in cui il Barcellona giocasse un po' al di sotto del suo standard, o come quasi sempre ha fatto quest'anno, concedesse una, due palle gol, se approfittate, non come all'andata quando sciaguratamente Robinho e anche Ibrahimovic conclusero abbastanza male, ecco, Milan deve avere una percentuale molto alta tra le occasioni che avrà, e non saranno moltissime, e quelle che riuscirà a realizzare. Se farà così non sarà facile per niente per il Barcellona. Farei un ultimo raffronto che è di stampo fisico, di stampo atletico, agonistico. Abbiamo visto queste due squadre appunto su quel campo arrancare, no? Nel finale anche, non dico penosamente, ma insomma arrancare esattamente 6 giorni fa a San Siro. Poi hanno giocato una partita tiratissima il Milan, praticamente con gli stessi uomini, con lo stesso organico. 3 giorni più tardi a Catania, il Barcellona non ha avuto un impegno così semplice in casa con l'Atletico Bilbao, ma certamente ha speso di meno. Altri 3 giorni ed ecco la partita decisiva. Da questo punto di vista dovrebbe a gioco lungo star meglio il Barcellona, temo. Beh, potrebbe sì, perché comunque c'è il Milan ha giocato più sotto il sole a Catania. Poi io credo che in realtà questa sera ci siano delle condizioni perfette, nel senso che a Barcellona fa abbastanza freddo e quindi le condizioni siano perfette anche perché a questo punto della stagione ti può anche capitare una serata molto, molto calda ed è più facile che accada a Barcellona che a Milano. Mi sembra che da questo punto di vista il Milan possa sentirsi decisamente garantito, nel senso che è meglio giocare al fresco che al caldo e poi tutto sommato il Barcellona ha un vantaggio in più, cioè il fatto che può anche pensare di poter giocare mezz'ora di supplementari in casa, che non è mai un brutto giocare, certo. Se si dovesse presentare questa occasione. È certamente una rassicurazione in più. Gagliani, in visita al Mondo Deportivo, ha appena detto chi passa stasera va in finale, quindi la pensa senza grandi scaramanzie da questo punto di vista, ma per l'appunto c'è sempre ancora da passare questo ostacolo. Dato che ci sono altri argomenti interessanti, tipo classifica inglese, United, tipo Balotelli, tipo sì. Ancelotti, cosa? Io sintetizzerei molto, prima delle notizie sul traffico, le altre 3 partite, cioè l'altra di stasera e le 2 di domani, perché insomma, salvo sorprese clamorose da parte soprattutto del Benfica, forse l'unico che può far rischiare qualcosa all'avversario, mi sembra che il resto sia scritto. Sì, perché il Marsiglia non può pensare di fare di nuovo un colpo del genere. A Monaco, anche perché poi stavolta l'andata l'ha persa, per cui sinceramente non lo ritengo possibile, cioè non, onestamente no, e il Bayern di Monaco non è una squadra che si fa dare 3 gol al Marsiglia in casa. Il Real Madrid neanche a parlarne, Mourinho fa un po' di turnover. Lunga intervista oggi sul Corriere della Sera a José Mourinho con molti spunti, e invece l'unica che può ancora ballare è quella del Chelsea. Devo dire che però il Chelsea, da quando è arrivato Di Matteo, ha messo a posto, ha usato quello che definivamo, Gigi, 3 settimane fa o un mese fa, i rimedi della nonna, cioè primo sì. Non prendere gol, certo. E mi sembra che i frutti si stiano abbastanza vedendo, quindi pronostico per un Chelsea in semifinali Champions League non è per niente peregrino, anzi a maggior ragione dopo l'andata. Sto guardando proprio su Sky Sport 24 i calci di rigore. Milan ieri sera si è giustamente allenato anche ai calci di rigore. Ho appena visto un cucchiaio di Ibrahimovic parato da Abbiati, ma non credo che Ibrahimovic stasera, se si arrivasse, li farebbe no, però, cucchiaio. Però ha nelle corde lo scavetto, perché ieri sera ha fatto un gol bellissimo nella partitella, proprio da una posizione molto molto defilata con la palla che ha preso un giro davvero meraviglioso. Poi per carità, sono cose che in allenamento riescono però lui ha questi colpi e cioè, lo può fare. E poi è giusto coltivarli in allenamento, soprattutto quando l'allenamento è tardo serale per via appunto di tutti i disagi di questa trasferta causati dallo sciopero dei controllori di volo francesi. Stavo dando un'occhiata alle quote aggiornate di stasera e c'è un 2-2, cioè il risultato esatto, un 2-2 a 18 che potrebbe anche essere interessante, come direbbe Masiello o Cristiano Doni. Poi parliamo anche di magliette, perché mi sembra è uno spunto di Franco Piantanita che mi sembra carino e volevo sottoporti. Ma insomma, ho detto Mr. Ferguson, ho detto una bestialità, parlavo di Sir Alex Ferguson e i suoi più 5 rispetto allo United, al City in quanto tempo, in quante settimane? Adesso ne mancano 8, per cui però c'è ancora un derby. Però sono tanti. Quando lo United va davanti di 5 punti. Guarda, è difficile, sinceramente è difficile che il City la rimetta in piedi, anche perché lo United, insomma, queste partite qua non le sbaglia davvero mai. In questo c'è la grande differenza, credo che sia rappresentata, e che è rappresentata proprio da Ferguson, la tranquillità che sa infondere alla sua squadra di lavorare, sapere che anche nell'ultimo quarto d'ora puoi risolverla. Ieri hanno fatto così contro il Blackburn, ha trovato una grande giocata Valencia ha fatto veramente un grande gol, il secondo l'ha fatto Young. Insomma, è una squadra che trova delle risorse anche da questi giocatori, che sono giocatori importanti, ma non sono certamente i cardini della squadra. Il City qualche punto lo sta regalando, ha fatto 3-3, poteva anche perdere in realtà contro il Sunderland. Ah, quasi casa. Perso, no? Di fatto aveva perso, sì. Di fatto aveva perso, ma sai, tra perdere e pareggiare più o meno. Cambia poco. Avesse perso, avrebbe forse definitivamente abdicato alla possibilità di vincere il titolo. La sensazione netta è che abbia messo la marcia giusta a Ferguson. Poi può succedere di tutto. In realtà già nel weekend a Pasqua il City gioca contro l'Arsenal. All'Emirates dovesse perdere, lo United gioca in casa una partita che non ricordo, ma a memoria non ricordo, ma non mi pare difficilissima, ecco, che dovesse prendere altri punti lo United, direi. A quel punto si chiude. Qui, Balotelli nel senso che, vabbè, di Balotelli si potrebbe parlare ogni settimana, perché ogni settimana una buona, una cattiva la combina. Stavolta è riuscito a fare tutte e due le cose nel quarto d'ora finale, direi. Lui ha fatto di tutto, mette delle magliette, litiga con i compagni, con Kolarov per le punizioni, poi è un grande giocatore, onestamente un grande giocatore, cioè uno bravo, sicuro. E quindi poi in campo le cose le sa fare molto bene. Non c'è più, cioè, onestamente bisogna solo sbattere la testa contro il muro quando leggi queste cose qua, perché sai che lui poi ne combinerà. Poi hanno ragione quelli che dicono che la stampa un po' ci puccia il biscotto, poi i tifosi si stanno un po' dividendo, alcuni pensano che sia il caso di venderlo, altri sono pronti a incatenarsi se lo Sheikh dovesse cederlo. Stiamo parlando di uno che temo per tutta la carriera farà così, tanto bravo in campo, tanto irregolare fuori, ma sono cose già dette, sì, già dette, sì. Già di fatto hai ragione. Ecco, a Mancini non è piaciuta tanto la comparsata che Balotelli ha fatto alla conferenza stampa di Stramaccioni, mi dicono. Ad Appiano Gentile. Esatto. L'extra, però stai a guardare il capello rispetto territorialità a... sì poi insomma, poi i capelli di Balotelli tra l'altro è meglio non guardarli. Senti, invece, mentre mi pare che Madame Carla insomma le sue radici le abbia messe a Parigi, ecco, mi pare che Monsieur Carlo invece siano un po' più fragiline come radici. Guarda, io spero di avere la fortuna di incrociarlo stasera, perché lui è da noi insieme a Vialli e Rossi. Ah, certo, per la Coppa. Andrò a cercarlo, oltre che per salutarlo, non certo per chiedergli nulla, ma si sa. Non ce l'aspettavamo, sinceramente, che il PSG a questo punto fosse dietro il Montpellier. Non tanto per la forza del Montpellier, che conosciamo meno, quanto per la strapotenza di un Paris Saint-Germain che lui ha preso in mano già prima in classifica. Davanti. Ma vista da fuori la sensazione è che non lui, certamente non Ancelotti, ma può essere che l'ambiente fosse già proiettato all'anno prossimo. Come un maratoneta che fa 41 chilometri e mezzo solitario o più o meno solitario, e poi si gode l'ultimo chilometro abbondante dicendo vabbè, tanto penso già alla prossima maratona, invece gli vengono da dietro, e poi lì fai molta fatica a ricalibrarti. La stampa è un po' avvelenata con lui un po' per la gestione di Nenè, che lui ha messo fuori la scorsa settimana, anche per un atteggiamento che Pastore sembra avere di una certa rilassatezza. E quindi adesso sarà il caso di rimettersi in carreggiata. L'occasione è già subito contro il Marsiglia nel weekend, e l'occasione da non fallire, però assolutamente da non fallire, altrimenti il Paris Saint-Germain, che è una squadra abbastanza perdente in questa fase storica negli ultimi 15 anni, direi proprio di sì. Rischia grosso. Senti questa delle magliette, che carina. Secondo un report di Sport Markt, dunque in Europa sono state vendute lo scorso anno 11 e fischia milioni di maglie ufficiali, no, di maglie di squadre. Allora, noi ci lamentiamo, noi italiani ci lamentiamo, spesso le società si lamentano del marketing, nel senso che questa voce di incassi è inferiore a quella di altri paesi. Grazie, però le nostre sono quelle che costano di più, costano in media, secondo questo report, le magliette italiane costano 71,40 euro. Sì. Che più o meno è il prezzo delle francesi ed è di poco superiore a quelle della Bundesliga, però in Spagna costano intorno, parliamo sempre di media, intorno ai 64 euro, ma soprattutto in Inghilterra ne costano meno di 50. E quindi sì, certo, ti lamenti perché poi c'è tutto, sappiamo, il mercato parallelo, clandestino o quello che vuoi, ma... Anche i grandi nomi, i grandi marchi, tipo Rooney, Balotelli, Lampard, eccetera, diciamo che siamo sui 55 euro, se vuoi avere quelle. Ma in Italia Cavani, Del Piero, Ibrahimovic arrivi a 80 in media, e mi sembra una bella differenza. Questa è una bella differenza, non credo sia l'unica spiegazione. Io continuo a vedere nelle partitelle che mi capita di vedere poco qui vicino a casa al campetto, o anche andando a portare le bambine a scuola, a vedere i bambini che magliette mettono, quasi nessuno mette le magliette delle squadre italiane, come se ci fosse una sorta di, non di vergogna, ma il fatto di venire indicato, no? Di venire additato. Vedo molte, insomma, vedo abbastanza colori del Barcellona, del Real Madrid, del Manchester United, non tantissimi i colori zero quelli della città locale, quindi in questo caso vabbè, del Pavia, che può anche starci. Sì. Può anche starci. Però ecco, se devi regalare una maglietta e pensi che il bambino la metterà, io credo che sia quasi meglio regalargli una maglietta, cioè non sia meglio, credo che in molti pensino che sia meglio regalare una maglietta del Barcellona. C'è una precocità, un'esterofilia precoce in un certo senso, oppure anche un modo non è semplice da spiegare, perché in genere il bimbo cresce col suo idolo, no? Con la sua squadra. No, ma infatti se vuoi un giorno possiamo anche fare un'analisi, io ti posso anche dire la fede di molti compagni di classe di Alice, penso che sarà molto interessante, ma questo è un discorso che possiamo fare fra qualche anno, sapere quanti bambini, c'è stata l'ondata dei bambini interisti, no? Molti bambini erano interisti perché a 4-5 anni hanno cominciato a seguire il calcio con l'Inter di Mourinho, adesso certo. Sono interisti. Sì, poi è arrivato il bambino Filippo e molti li ha scoraggiati e gli ha fatto cambiare, per fortuna. E però sarebbe interessante vedere questi flussi in base proprio alle ondate. Io credo che fra qualche anno avremo un ulteriore incremento di bambini juventini, perché quest'anno certo. Anche i juventini che avevano la fede sopita l'hanno ritrasmessa, ai figli, e questo è un anno molto fecondo per il tifo bianconero. Però complessivamente credo che se tu vai in giro con la maglietta del Manchester United nessuno ti guardi. Se vai in giro con la maglietta dell'Inter, Milan, della Juventus, dico le tre squadre più vendute, a questo punto rischi che qualcuno ti guardi male. Sì, ecco, certo. Cosa mi spiego? Sì, e sì. Quindi se devo rischiare di essere guardato male, preferisco mettere una maglietta. Tanto vale. Gioco sull'extraterritoriale. Gioco su quello. Perfetto. A giovedì, Fabio. A presto. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Grazie ancora. Dunque, lei è un signore, bontà sua, scrive Vittorio, e quindi non infierisca su Doni e su Masiello. No, Vittorio, non siamo d'accordo. Invece qua c'è da infierire come? C'è da infierire, c'è da chiedersi perché, cioè dove si arrivi, se a Doni o comunque se a Core danno i 3 anni di squalifica. Cioè qui bisogna arrivare alle squalifiche a vita e alle radiazioni, ma con grande urgenza, perché sennò da questa cosa non se ne esce. Scrive per esempio Mino da Como: dobbiamo appassionarci ancora a questo sport in mano a ultra e a calciatori corrotti? Ma Mino, faccia un po' lei, io continuerei a appassionarmi, ma col filtro, nel senso, potevo usare un'espressione anche meno corretta, ma insomma usiamo una protezione, ecco, mettiamola così, siamo in giro di parole, usiamo una protezione nella nostra passione per il calcio, perché io non credo che ci sarà mai il rischio che un Barcellona-Milan o una partita di quel livello possa essere inquinata, ma sa, leggere i dettagli di un derby addirittura venduto, e di un derby tra l'altro molto, molto sentito e dir poco, molto feroce come è tradizionalmente quello tra Bari e Lecce, e pensare che sono stati, non pensare, leggere che sono stati gli ultra, i tifosi ultra tuoi, della tua parte, che ti hanno suggerito, costretto, minacciato, poi lì ciascuno usi il verbo che crede, di vendere quella partita ai rivali, appunto, ai rivali più storici, ai rivali più accaniti, tu esegui e naturalmente lucri, e per essere ben sicuro ti fai anche l'autorete. Io capisco che per molta, molta gente questo significhi un confine che non andava varcato, insomma. Massimo, per esempio, Massimo Marnico scrive da Udine: stagione 2009-2010, il Bari di Ventura gioca uno splendido calcio, io lo seguo con interesse, controfirmo perché giocava davvero un grande calcio quel Bari. Stagione 2010-11, il Bari inizia bene la stagione con un gioco simile all'anno precedente, ma dopo poche giornate il meccanismo si inceppa e qualcuno parla di perdita di qualità dei difensori, perché è vero, il Bari aveva ceduto nel frattempo i difensori migliori, i difensori di grido. Aprile 2012, ora capisco tutto e lascio definitivamente il mondo del calcio, se non perché ho qualche occhiata fuori dal bel paese, cioè Bayern, Real, Barça, eccetera. E noi capiamo lei, caro Massimo. Poi, appunto, adesso tocca al calcio, come dire, giudiziario, fare la sua parte e farla nella maniera più dura possibile, in Italia e fuori, andando magari anche a colpire queste centrali, provando a studiare da un punto di vista legislativo se non si può far nulla per arginare il fenomeno delle scommesse, per esempio il fenomeno degli sportivi che fanno pubblicità ai siti o alle raccolte di scommesse. Ecco, io questo credo che potrebbe cominciare a essere un bel primo passo, senza far nomi e senza colpevolizzare chi oggi questa pubblicità la sta facendo, no? I Buffon, i Totti, mi pare, perché non c'è nulla di male sino ad oggi, ma di fronte a un'emergenza come questa io comincerei a fare una seria riflessione, per esempio da questo punto di vista. Caro lei, scrive Massimiliano Crosato, possiamo esaminare quanti più aspetti vogliamo e raccontarcela, ma la corsa del Milan finisce stasera perché il Barcellona queste partite in casa non le sbaglia. Ma la logica dice questo, i precedenti anche, poi però i precedenti sono fatti, e poi di precedenti ce n'è tanti, i precedenti sono che il Milan quando ha fatto 0-0 in casa è uscito soltanto, mi pare, 2 o 3 volte su 14, adesso non ricordo, ma comunque molto molto poche, è una percentuale molto alta. Di sicuro per il Milan una buona notizia oggi è già arrivata, fa seguito a quella di ieri, riguarda sempre Cassano, che ha superato la visita di idoneità agonistica e da oggi torna a giocare. L'ha annunciato Tavana, il medico sociale del Milan. L'idoneità è stata ottenuta, l'esame è stato ottenuto stamana all'Istituto di Medicina dello Sport di Milano, dalla Federazione Medico Sportiva. Cassano riprenderà ufficialmente ad allenarsi già nel pomeriggio di oggi, aggregandosi alla primavera, che sarà impegnata in allenamento oggi a Milanello, e quindi questa lunga parentesi sospesa della carriera di Cassano ha trovato un lieto fine, per fortuna. Giovanni ha chiamato dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, premetto che gli stupidi si trovano a tutte le latitudini, però per combattere la stupidità di questi cartelli razzisti, il giudice sportivo della partita Napoli Juve, questa qua ultima, non ha dato nessuna sanzione, sia pecuniaria che un'ammenda anche verbale, niente. Come mai questo fatto? Come si può combattere? Non ho idea, Giovanni, non ho visto cartelli, non ho sentito cartelli. Io credo che la medicina migliore proprio per gli stupidi, come li chiama lei, sia quella di ignorarli. No, poi purtroppo ogni tanto la fanno così grossa che ignorarli non è possibile, perché diventa un problema. Diventa un problema di costume dopo, di ordine pubblico, di tutto quello che vogliamo. Io stavolta sinceramente confesso di non aver colto nulla, e per questa settimana credo che possa sinceramente andare bene così. Mi stavo dimenticando delle vigilie almeno dei due allenatori. Sentiamo le ultime parole prima di questa sfida pronunciate da Allegri a proposito del Barcellona. Non è questione dell'occasione della vita di Ibrahimovic, cioè la questione è che il Milan sta giocando un ritorno di un quarto di Champions contro la squadra più forte al mondo, partendo da 0-0, sapendo che la partita è molto difficile, quindi per tutti è un'occasione importante per approdare in semifinale. Ma io credo che per l'importanza della partita vedremo il miglior Barcellona della stagione, anche perché sabato sera ha fatto una buona partita, soprattutto nella fase della riconquista della palla sono stati molto bravi, che è la loro migliore caratteristica, oltre a quelle dei singoli giocatori che hanno. Bisognerà aspettarsi un Barcellona aggressivo, come sempre, e soprattutto bisogna essere pronti a cercare di giocare bene, molto bene tecnicamente, e da uscire da delle situazioni difficili che loro ci creeranno. Dall'altra parte, Guardiola. Sempre una situazione dei quarti finali e semifinali, se un paese, sono delle società, delle squadre che sono grintose in questi momenti sono gli italiani, conoscono bene come giocare questo tipo di partita, non hanno fretta, hanno la pazienza, hanno il colpo, non hanno bisogno di fare grande prestazione per vincerti una gara, e dobbiamo giocare con altissima intensità, ma alla stessa volta con certa pazienza per trovare il momento giusto per attaccarli, sapendo che loro nel contropiede è sempre un'arma fondamentale, anche nei calci piazzati, anche che in tante. E questo era Guardiola. Luca ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Galanzini, volevo fare due domande veloci e una considerazione. La prima domanda, volevo sapere se il Milan in caso di sconfitta questa sera ha ripercussioni sul campionato, una sconfitta anche pesante. La seconda domanda era su Pato, cioè è possibile che un mese fuori Pato non giocherà più, Pato qua, Pato là, e poi un Pato a disposizione? Cioè io non riesco a capire se è una cosa tra Pato e società, tra Pato e Allegri. E l'ultima considerazione, mio figlio ha 13 anni, nella sua scuola giocano a calcio tutti i venerdì, hanno tutti le magliette straniere. E posso assicurare che mio figlio ha voluto la maglietta del City, la seconda, meno male che non ha messo il numero di Balotelli, però ha voluto tutte le magliette straniere, e per il prezzo però le posso dire che la maglietta del City, la seconda da bambino, è 70 euro. Da bambino, eh? Sì, bambino. Cioè bambino nel senso 13 anni, ecco, euro. Bisogna cominciare a spiegare ai nostri figli che magari, non so, una felpotta oppure le maglie che usavamo noi nei nostri tempi, che poi magari al quinto lavaggio stavano in piene da sole, però credo che in tempi come questi davvero siano delle follie. Poi ciascuno di noi è bravissimo a teorizzare e poi a crollare davanti al primo figlio o nel mio caso nipote che nemmeno ti chiede, basta che guardi una cosa e tu già sei fatto. Però sono riflessioni che invece andrebbero coltivate un po' di più. Sulle altre due domande adesso ho perso un tantino il filo, le confesso, però non credo, direi la principale, non credo che il Milan avrebbe una ripercussione particolarmente negativa. Credo semmai, l'ho già detto ieri, che le ripercussioni negative per il campionato sono se passa, perché alla fine è una questione di fatica. È vero che i successi ti aiutano a smaltire le tossine, questo è provato. Però è anche vero che poi le smaltisci, ma dopo te le ritrovi, no? Dopo un po' di tempo, soprattutto perché avrai altri impegni ulteriori. Insomma, se il Milan vuole essere un po' più tranquillo sul campionato, stasera deve rassegnarsi, non so come dire. Dato che non ha nessuna intenzione di rassegnarsi, è chiaro che gioca su due tavoli, e fino a quando può farlo, fa non bene, fa benissimo a farlo. Daniele, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io sono il camionista, da anni gli mando dei messaggi. Senta, io la chiamo per questo motivo qua. Adesso tutti si sorprendono per sto calcio scommesso, tutti sconvolti. Io penso che negli ultimi, da quando io gioco i 2 euro la domenica, dagli ultimi 5-6 anni, ma di partite che si vedono lontano un chilometro, che sono fatte, gliene posso elencare almeno 50. Io mi ricordo l'anno scorso un Chievo Bologna, un Piacenza, Albinoleffe Piacenza 3-0 per il Albinoleffe, 3-3 sbagliano un rigore da Albinoleffe in 10, ce ne sono. Adesso tutti si scandalizzano. Io penso che metà di tutta questa gente che lega contro lei sapevano tutto. Ci sono delle partite che si vedono lontano un chilometro. Ma io su questo, Daniele, non, anche se lei è fedelissimo, mi spiace contraddirla, ma il vero male che fanno queste porcherie è che ti tolgono credibilità, ti instillano il tarlo del dubbio e legittimano, perché lei ha perfettamente ragione, è perfettamente legittimato a dire quello che dice, però legittimano una certa razione di mitomania, mi perdoni se uso questo termine, ma io sono abbastanza convinto anche di questo, nel senso che ci sono partite che finiscono e finiranno pari tutta la vita, ma non necessariamente perché intortate, perché la situazione di classifica di quel momento non impone ma suggerisce che. Poi certo, una volta non si poteva scommettere, adesso invece non si può scommettere ancora se sei un calciatore, ma fai scommettere l'entourage o la famiglia in alcuni casi, e quindi ci lucri pure su. Questo è l'inquinamento ulteriore che è arrivato, ma io non sarei ancora lì, perché se no sì, lei magari dirà, io ho capito un anno fa da come Masiello è mezzo inciampato su quel pallone, ho capito che ha venduto sta partita. Io, insomma, io come tanti altri che a pallone abbiamo giocato, quello seguiamo da 40 anni, nel mio caso da 50, eccetera, io faccio tuttora fatica a credere a questa, o meglio, alla confessione credo purtroppo. Ma lo trovo così inammissibile che un giocatore venda un derby addirittura cacciandosi la palla nella propria porta volontariamente a 10 minuti dalla fine. Faccio fatica a crederlo, perché la trovo un'aberrazione tale che e poi comunque l'ha fatta bene, perché l'ha fatta in maniera come dire, balbettante, no? Perché così diceva quella sequenza tragicomica. Poi ovviamente si sdraia per terra, le mani nei capelli, è disperato. Allora, certo, da ora in poi, quando si vedrà fare un autogol di quel genere, sarà più facile dire per tutti: eccolo, questo ha venduto la partita. E invece magari non sarà vero, perché sennò il povero Nicolai, stopper del Cagliari degli anni 70, che in autoreti era specializzato, ma le autoreti erano davvero tutte involontarie, sarebbe stato uno dei più grandi attori della storia, altro che Buster Keaton. E invece non era così. Tino, Reggio Emilia, buongiorno. Dottor Garantini, volevo chiederle secondo lei cosa ne pensa di questo. Io stasera, se fossi Allegri, farei giocare Sharawi e non Ibrahimovic. E poi volevo fare un appello a tutta la città di Palermo di riempire lo stadio di bianconero domenica e sabato a Palermo, visto che la squadra di palermitano sono tutti bianconeri, che ci diano una mano a vincere questo scudetto. Grazie. Prego. Prego, Tino. Ogni tanto arriva la richiesta strampalata. Penso che saranno. Si immagini se i palermitani non sarebbero felici di scortare la Juventus e di vedere perdere il Palermo sabato. Non capisco come non gli sia venuto in mente già prima ai poveri palermitani. E Sharawi credo che sarà il primo cambio. Io penso che il primo cambio in attacco di stasera sarà o sarebbe, in caso di necessità, proprio Sharawi al posto di Robinho, non credo di Ibrahimovic, più di Pato penso, ma poi molto dipenderà, tanto tutto dipende da Allegri e molto dipenderà dall'andamento della partita. È sempre difficile, quasi impossibile ipotizzare i cambi prima, perché puoi teorizzare finché ti pare e poi invece la partita ti suggerisce o ti impone altre cose a cui nessuno ha pensato. 3 aprile, Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 aprile 1957, semifinale di andata della Coppa dei Campioni. La Fiorentina di Fulvio Bernardini sbanca Belgrado, battendo 1-0 la Stella Rossa. I viola sono costretti sulla difensiva per larga parte del match, ma trovano l'acuto decisivo a 3 minuti dal termine con Maurilio Prini. Al ritorno la Fiorentina riuscirà ad amministrare il vantaggio pareggiando 0-0, diventando così la prima squadra italiana finalista in Coppa dei Campioni. Nella finalissima il Real di Stefano Eghento si imporrà per 2-0, ma i viola usciranno a testa alta dal Santiago Bernabeu dopo aver messo a più riprese in difficoltà una squadra che stava facendo epoca. Ma quella era davvero era uno straordinario Real Madrid, ma quella era davvero una grande Fiorentina, potrei ripetere tuttora la formazione a memoria. Alessio da Alessandria domanda, la punizione a due in area che fine ha fatto? In molti casi sarebbe perfetta, scrive per l'appunto Alessio, come per esempio per i falli di mano su cross o situazioni oggettivamente fallose ma non così pericolose da dare un rigore come pena per l'irregolarità. Ma Alessio, se ne è parlato a lungo, sa, di questa cosa, perché io stesso sono anni che adesso ormai ci ho rinunciato perché non li danno davvero più, ma per un bel po' di anni mi facevo la sua stessa domanda, cioè perché è sparita questa punizione intermedia, insomma questo gradino intermedio, no? Che si potrebbe adattare, cioè che il regolamento stesso prevede come soluzione per certo tipi di situazioni, soprattutto ostruzionistiche o magari involontari, ma che rappresentano comunque un danno per la squadra attaccante, e che invece non vengono, e invece questa formulazione, questa formula, insomma questa, questo tipo di punizione a due in area non viene più non viene più concesso. Lo chiederemo a Casalin in uno delle sue prossime non apparizioni, non siamo in televisione, ma sono le sue prossime visite qua da noi. Intanto sentirei il dottor Tavana, il medico del Milan, sul via libera di stamane a Cassano, che sta per cominciare il suo primo allenamento dopo tutti questi mesi a Milanello. Federazione Medico Sportiva Italiana ci ha aiutati, ci ha permesso di avere attraverso una commissione, attraverso la visita di oggi, il massimo delle garanzie per la tutela della sua salute, quindi Antonio Cassano è idoneo come tutti gli altri giocatori del Milan. Quello che è il nostro compito è metterlo a disposizione dell'allenatore, quindi lo allenerà nella giusta progressione che riterrà lui. No, non ci sono più step, per un anno lui ha un'idoneità, spero proprio che non ci sia bisogno di altre situazioni, no, tranquilli. E questo era il dottor Tavana a proposito di Antonio Cassano. Dennis ha chiamato le Vicenza, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo dirle, secondo me lei ha centrato il problema per quanto riguarda le magliette, quello del prezzo. Perché le faccio un mio esempio proprio personale. Io ho comprato una sola maglietta della mia squadra, il Vicenza Calcio, ma parliamo di, credo, 12-13 anni fa, c'erano ancora le lire. Era quella maglietta che Guidolini aveva definito il pigiama, quella azzurra, e l'avevo comprata perché era stata svenduta al negozio ufficiale del Vicenza a 27.000 lire dell'epoca, quando le altre ancora costavano sui 60-70.000 lire. Se fosse rimasta a quel prezzo non l'avrei mai comprata, e infatti ho comprato quella maglietta e non ho più comprato altre magliette in tutta la mia vita, e quella la uso ancora per andare a giocare a calcetto con i miei amici. In più, già all'epoca io tornavo da un anno di studio all'estero in Gran Bretagna, e già lì avevo visto che una media di 25-30 mila lire in meno costavano le maglie ufficiali. Parliamo di tempi non sospetti. No, parliamo di tempi, lo so, infatti, però io comunque quando vedo questi prezzi e li vedo di questi tempi, e leggo, e insieme a questi numeri, i numeri di questi prezzi, leggo i numeri di spaventosi, no? Che riguardano i disoccupati, che riguardano il crollo del potere d'acquisto, che riguardano insomma tutto quello che sappiamo, faccio un po' più di fatica di prima a metterli insieme. Ma lei dove vive, mi domanda un ascoltatore, non si ricorda Svezia e Danimarca agli europei, quel 2-2, questi grandi attori del calcio, e si meraviglia di Masiello? Sì, io mi meraviglio di Masiello, sì, perché che Svezia e Danimarca facessero una recita, nonostante appartengano in teoria ai due paesi dove lo sport è più con la S maiuscola, eccetera, eccetera, l'avevano capito anche i bambini dell'asilo sin dal giorno prima. Ma era una recita su una cosa temo lecita, no? Tant'è vero che non ci fu nessuna squalifica, e che conveniva a tutti e due. Leggermente diverso è uno che si vende invece una partita, non combina un pareggio con il Lecce, ma voglio dire, combina e fa in maniera che la sua squadra perda, con un'autorete, mettendoci del suo, e spiegando poi al giudice che a 10 minuti dalla fine il Lecce era sull'1-0, insomma, vinceva già 1-0, ma per mettersi proprio tranquillo, sottinteso, che non ci fosse uno dei miei compagni che non aveva preso il grano e che magari scendeva e indovinava la sassata da 30 metri, meglio mettersi dalla parte della ragione e infilarsi un autorete. Beh, insomma, se mi permette, a me questo mi sconvolge. Svezia e Danimarca non mi sconvolse affatto. Lo trovai purtroppo normale, nel senso che in queste cose tutto il mondo è paese, e sono molto pochi quelli che possono permettersi una predica. Giacomo da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dove lei? Sempre sulle magliette, no? Io ho 15 anni che ogni lunedì sera giochiamo a calcetto con gli amici, è sempre con la maglietta della magica della Roma gioco. Sì. E ho ovviato il problema, perché costano in effetti, comprandole a fine stagione sul sito del fornitore ufficiale, e quindi si trovano a 25-30 euro. Ah sì, eh? È l'unico modo per avere una maglietta fatta bene. Ufficiale. Sì, a patto, però mi faccia capire, a patto che la squadra non abbia vinto il campionato, cioè che non abbia fatto una grande stagione, o sono comunque in saldo? La comprai anche, quella dello scudetto, con la pubblicità dello scudetto, mi ricordo a 20 euro più 5 euro di spedizione. Certo, se costassero 50 euro, sempre, allora uno le comprerebbe più tranquillamente, ecco, perché il prezzo è troppo eccessivo in effetti. Certo. In Inghilterra, quando uno va allo stadio, stanno tutti con la maglietta ufficiale. Perché? Perché costano 50 euro. È semplice. È semplice. In effetti, a pensarci, è abbastanza semplice. Grazie. Grazie Giacomo. Dunque, la formazione di quella Fiorentina era Superchi, Rogora, Mancini, me lo diceva sempre il mio nonno, scrive Ale. Ale, il suo nonno le raccontava un sacco di... il suo nonno le raccontava la Fiorentina del 69, quella che vinse il secondo scudetto, ma quella Fiorentina del 57 che fece la Coppa Campione, la finale di Coppa Campione in casa Real... e che aveva e che quindi aveva vinto il campionato l'anno prima, adesso rischio perché prima ho detto la ricordava la memoria, mi butto, ma era Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Rosetta, Segato, Iuligno, grandissima alla destra, Iuligno, Gratton, Virgili, Montuori, Prini, e quando non giocava Prini giocava un Cerco Bizzarri. Oggi, per oggi sono felice perché sono arrivato in fondo, anzi l'ho detto i 12 pure. Giovanni da Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini, ascolta, volevo chiedere una cosa importante. Io sono un interista quest'anno sfegatato, ma di quello numero uno, come io, come tanti interisti. Sfegatato? Importante. Però quelli che io amo di più, interisti, juventini, milanisti, napoletani, romanisti, torinisti, eccetera. Italiani. No, era un'affinità elettiva subito per mettere a fuoco. Poi volevo dirle ancora un'altra cosa. Per quanto riguarda, io vedo tutti i ruoli praticamente il processo di Biscardi. Eh beh, vorrei vedere, le pare che uno sfegatato se lo perde. Sì, no, ma volevo dire pure questo, quando fanno comoda i signori Biscardi e via tutta la convicola di loro, fanno vedere i gol che è entrato. Il gol del Catania non era entrato assolutissimamente, perché se loro fanno vedere la riga per come deve andare, io sono un falegname da 60 anni, il metro lo conosco abbastanza bene, però se i signori lo fanno a modo loro, aspetto una sua risposta, lo ringrazio tanto. Giovanni, io chiedo la sua comprensione, non so come tirano le righe i falegnami, gli artigiani, è passato tanto tempo da quando, non lo so, sono un po' in difficoltà davvero, sto leggendo i messaggi, forse anche per tirarmi un po' su, dice Marco da Milano, scrive: pensate che Ventura è stato esonerato a causa di Masiello, meditate presidenti, meditate, così. Così forse proprio non è stato, insomma. Comunque Giovanni, grazie, continui a seguire il processo di Biscardi, che vedrà che ne trarrà spunti positivi. Grazie a Nicolò Rinaldi in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti, a domani.